Oggi il piano freddo è un momento dell'anno in cui rafforziamo un impegno che però dura tutto l'anno, un impegno di relazione con le persone senza dimora, che vivono la strada, una continuità di attenzione, di relazione, di ascolto dei loro bisogni, che ci consente in questo periodo dell'anno di programmare una risposta quanto più rispondente a quelle che sono le loro esigenze. Abbiamo una gamma di servizi importante, abbiamo rafforzato anche il numero in termini assoluti di posti fra i posti e le strutture che ASP mette a disposizione, il consorzio Arcolaio gestisce, e la disponibilità delle parrocchie che ancora una volta anche quest'anno mettono a disposizione un numero di posti importanti. Complessivamente sono 238 i posti che abbiamo nel piano freddo di quest'anno, ma oltre ai posti ci sono tutta una serie di servizi che riguardano l'accoglienza diurna delle persone quando appunto escono dalle strutture, che riguarda la consegna dei pasti, che riguarda complessivamente i bisogni di queste persone. In particolare quest'anno abbiamo anche avuto un'attenzione specifica sul tema dei lavoratori poveri, che è un'esigenza crescente rispetto alla quale abbiamo deciso di dare continuità a una struttura che è quella di via Fantoni, che sarà aperta H24 e quindi potrà consentire a queste persone di stare in questa struttura anche nel periodo diurno, anche per molti lavoratori che ad esempio lavorano di notte e hanno bisogno di un ricovero diurno e non notturno. È un piano freddo, è un momento dell'anno in cui appunto rafforziamo i servizi per le persone che sono a rischio di grave emarginazione, che è un piano freddo comunitario in cui appunto tutta la città può dare un contributo sia nelle sue espressioni istituzionali, sia nelle professionalità che sono coinvolte, nel volontariato, ma anche i singoli cittadini. Per questo ricordo che c'è anche un indirizzo email che è instrada@piazzagrande.it a cui tutte le persone possono fare segnalazioni, che è un strumento molto utile per riuscire a dare un contributo a tutti gli operatori che lavorano, ricordo, lavorano unità di strada, lavorano in prossimità di queste persone 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, e quindi sicuramente però l'attenzione della cittadinanza è un qualcosa di molto importante che ci aiuta a offrire servizi, una risposta più che altro a questa esigenza quanto più puntuale possibile. Non c'è una corrispondenza diretta ad oggi una corrispondenza diretta fra la situazione oggettivamente preoccupante di impoverimento delle famiglie, delle persone e la situazione che stiamo verificando in strada. Ovviamente questo è un elemento di monitoraggio. Sicuramente il tema Covid ha rappresentato negli anni passati, da un punto di vista anche organizzativo delle strutture, una grande complessità che in parte permane, e ovviamente permangono anche tutte le attenzioni che ne derivano, però ecco, la scelta di aumentare i posti è figlia di una lettura del bisogno che, ripeto, avviene costantemente lungo l'arco di tutto l'anno.